si sono appannati di questo cazzo di pizzitti con questa mascherina e si sono comparato dalla rampa caricando le bombole, va in ora a mara, meno male che mi sono tenuto bene. Di mattina per rompere le palle, ho preso mia moglie che può per occhiare, poi è uscita a fare una passeggiata, gli mai dice don caro Budube, perché mi sono appannati gli occhiali e gli mai gacci. No, veramente non si può con questa bucaria. E infatti adesso poi lì c'è in bilico, stavo caricando, stavo aspettando a caricare, meno male che ci sono sceso bene, mi sono fatto male un po' la mano, ma non è successo niente. Se ero secondo come ti zero parato mi ero troncato lo godo. Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, è un casino. È un casino, va bene, va bene. Vai Marco, dai, un altro passaggio e poi chiudo, farò cenare. A proposito di cosome, mascherine, adesso il sindaco se n'è inventata un'altra. Adesso, presumo in luoghi aperti, pubblici insomma, dove non puoi fumare vicino ad altre persone. Perché? Perché per fumare ti devi abbassare la mascherina e se ci sono altre persone vicino non puoi fumare. No. E quindi insomma tra i divieti del fumo, che io non sono fumatore però certe cose non le condivido, e cioè allora vietate le sigarette, tanto fanno male, no? Più questi divieti Covid, insomma per i fumatori sta diventando una tortura, lì non puoi fumare, lì non puoi fumare, lì non puoi fumare, adesso non puoi fumare con la scusa del Covid e barretta abbassi la mascherina, a meno che uno non ci faccia un foro per la sigaretta. Vabbè, ma la sigaretta ti devi allontanare, ti devi allontanare, io cerco di evitare questi assembramenti col fumo e con tutto, perché è così, ha ragione secondo me, capite? Sì, vabbè, però io non sono assolutamente, non sono un fumatore, però già si sta pure esagerando un po', dai. Cioè se c'è uno è ficcato tra le di avvicinarti a me, cioè non si sta esagerando, va. Cioè non se ne comprende più nulla di questa cosa qua. Sì, anch'io lo dico da non fumatore, però cioè, nemmeno nei parchi pubblici puoi fumare, magari sei da solo come un cane, c'è le distanze da tutti e non puoi fumare in luogo aperto. Vabbè, pigliare in luce. Fanno. Vabbè, non mi pronuncio, sennò bestemmio pure. Tu pari inquinamento hanno detto, e non so cosa ne dico. Ma inquinamento di cosa? Ma qua io non sono fumatore, però qua c'è una persona che è fumatrice già incazzata. Ma fuma la tua compagna? Scappa! Vabbè, tanto la fastidio comunque, vabbè, ma siete conviventi, non succede niente, quello che dice Marco è che quando si è tutti assieme e non si è conviventi, il fatto che tu ti abbassi la mascherina e mi butti il fumo sopra e fumi vicino a me, non va bene, capito? Quello senza ombra di dubbio, però sembra che la gente mandi a forza a girare le balle pure, cioè c'è un po' di gente che ne approfitta e magari ti fa il video col telefonino come sta succedendo. No, a me non è che mi dà fastidio, a me mi gira proprio le balle, cioè ma no, nel senso se magari succede di giorno ma di notte che sono coricato qua, sento l'odore del fumo, apri il cielo, quello non voglio proprio. Non ho mai fumato in vita mia, io avevo 14 anni quando ho iniziato a fumare nel 61. Tanto no, assolutamente mai. Io a fumare vengo qua nella mia stanza c'è la radio con la finestra aperta, io mi salvo e non fumo, davanti a mia moglie e mia figlia non fumo, ma stai scherzando, no, non esiste proprio. No, non hai compreso, allora qua siccome la casa è un po' particolare, se lui te ne scende giù a me mi arriva il fumo, capito? Cazzo, non lo sopporto, già non sopportavo a babbo in casa, non sopportavo, cioè quando fumavo anche fuori sentivo l'odore, cazzo, mamma mia, non si può dire a sa, perché io poi non fumo, cioè non fumo fumo già da più di 10 anni che non fumo, perché ci ho buttato tutto. Cioè ti puoi immaginare quando fumavo io, cioè come si dice, quando fumavo io era un disastro, era. In due a casa a fumare è tosto. No, io fumo da solo, mia figlia non fuma, mia moglie non fuma, però ti ripeto, io la maggior parte vengo qua, infatti mi ha messo la TV per quello, vengo qua, mi apro la finestra, fumo da freddo, da fendeva, non me ne ha fatti nulla, è così, ma quando sono a salone non fumo, d'estate vado a fumare a fuggiolo, e cazzo, ma poi se uno non fuma, il fumo passivo è più pericoloso di un fumatore, ma non può fumare. Dai, a proposito di fumo adesso andiamo a mangiare prima di fumare. Ciao Marco, ciao Antonio, piacere avervi ascoltato, grazie alle due chiacchiere, saluto a tutti quelli che sono in ascolto, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte a tutti. Dai, buonanotte cari, prendo io, comunque qua è un ambiente unico, è per quello che c'è questo problema, però lui già se ne va giù, anche io non lo sopporto. No, ma non ci fumerebbe mai nel mio camera da letto. Ok, avanti Marco! Cappa Claudio, dai, ci sentiamo. Buona sera, buon tutto, ci sentiamo nelle prossime. Dai, buona serata. Vediamo se è rientrato Luca, se è tornato a casa. No, è Gianni doppio Roma, è rientrato dalla passeggiata Vulcane? No, non credo. Quando la fa lunga. No, dico la passeggiata, non la pipì o la pupù il cane, la passeggiata, anche per farlo sgranchire un po', fargli sgranchire le gambe. Porca miseria, io come sempre ho la narice sinistra fuori uso, chiusa, devo pigliare un po' di acido muriatico e con la siringa farmi gli sciacqui, capito? Vabbè, magari qui c'è un cane. Aspetta, traduci Antonio, non ho copiato. Magari ti pisciamo al cane, insieme al cane. Se scappa, porca miseria. Certe volte mi è capitato a me che mi stava scoppiando la vescica, ma da sentirmi male, io sono contrario a farla in strada di notte, anche semi nascosto, oppure l'ho dovuto fare. Se no mi pisciava addosso. Bella roba mi. Tu quasi bau, là tu quasi pis. Eia, hola. Eia, quindi Antonio mi hai chiarito la cosa, che anche quella è della LEM, però il modello è vecchio, e infatti era fatto meglio. Ogni volta che la LEM, e non solo la LEM, va a toccare i progetti originali, fa danno, capito? Per esempio alla Turbo 2001 si dice che abbiano modificato la lunghezza, credo, dello stilo e quindi di conseguenza della bobina, e molti si sono lamentati che, non lo so, si sono lamentati o i materiali sono peggiori o comunque non riuscivano a tararla bene quanto prima e vanno sempre a risparmio, sempre di più a risparmio stanno andando, capito? Questa io mi accorgo, vabbè, forse perché ha avuto quel problemino là, magari se poi se va a sistema è tutto quanto un'altra parrocchia, tutto un altro mondo, però questa io mi accorgo che è migliore, cioè io sento più bene, cioè io certi segnali li percepisco meglio. E poi quello che mi rancora è che cazzo le stazionarie sono un bijou, non riuscivo a regolarla quella là, ma quella là forse ho capito la cazzata che ho fatto, poi l'ho capito dopo quando l'ho smontata, ma in ora mara. E qual era lo sbaglio che hai fatto? Ho sbagliato entrando il tubo, un tubo. Ah vabbè, comunque se tu guardi forum un bel di gente è impazzita per tarare questa Ringolem, l'ultima versione, perché credo che la bobina l'abbiano fatta più larga, è presente la spirale, no? Prima aveva un diametro tipo 20 centimetri, no? Quest'ultima credo che sia almeno 29 centimetri di diametro, una cosa del genere. sì, gli hanno fatto quindi di conseguenza la bobina più lunga, solo che poi dovevi accorciare un bello stilo, oppure dovevi trovare una posizione del morsetto, una posizione impossibile, cioè dovevi fare un bel di prove, era una rottura di balle era. E molti si sono lamentati che non sapevano, anche perché il manuale non ti dice a che lunghezza metterla, il manuale diceva lunghezza 5 metri, tu la regolavi a 5 metri in totale e non tornavano mai le frazionarie, capito? E io l'avevo accorciata parecchio, cioè non, così non va. Invece questa l'ho regolata, sì, c'ha il centrobanda un po' più basso del dovuto, anziché solo 20, il centrobanda è sul canale 1 o poco meno, qualche canale sotto l'1, però almeno ti dà la possibilità di usarla appena installata lì. Porca miseria, a fare prove contro prove, voi qua diciamo che no. Questa è meglio, perché questa ha le cose obbligate, ha le vitti. E quindi deve andare per forza così l'antenna, non può andare diversamente. Quella là invece no, devi stare attento quando arrabbiati. Vabbè, io qua sono sempre che sono riuscito a farla bene. Ma che me l'ho messa qua dentro? Ti faccio vedere il lavoro che ho fatto. Ho mandato anche il video. Praticamente l'ho messa qua dentro con l'uccernaglio aperto, un pezzo di tubo mi ha dato, la bagliava, quando è andata 1-1, boh, ho bloccato tutto e via. Cazzo, questa è una bomba, questa va alla grande, e così è stato. Perché me l'ho messa qua piano con l'uccernaglio aperto, mettendola così, sono riuscito a tararla. Io mi ricordo, non so cosa ti volevo dire, che la lemma per la boomerang, la ringo, non ti emette nemmeno i segni a pennarello di quanto devi fare entrare l'elemento uno nell'altro, no, dello stilo. Mentre persino la Venom, la fabbrica, ti mette il segno del pennarello di quanto devi fare entrare uno stilo dentro l'altro, no? E lì, una volta che segui quelle indicazioni, bene o male le stazionali sono azzeccate, grosso modo azzeccate. Ma lì non c'era alcun riferimento nella Ringo comprata da Fusaro, capito? Dovevi andare a tentativi. Per fortuna, Antò, che io ho a disposizione il terrazzo che era di mio nonno, di proprietà, non è qua però, è in un altro palazzo. Quindi lì c'ho tutto lo spazio per fare le prove. Infatti mi sono portato quel porta ombrellone di metallo che ha quattro piedi, è pieghevole, no? Poi mi sono portato un metro di palo, uno o due metri, un metro di palo, purtroppo più lungo non ce l'avevo. Ho portato il baracchino, il rosmetro, il cavo, 5 metri di cavo, e ho dovuto tararmela, perché se tu rispettavi i 5 metri che diceva il catalogo, lunghezza scritto generico, no? Lunghezza 5 metri, invece era elettricamente lunghissima questa antenna, addirittura risuonava sui 12 metri, cioè sui 24.900 MHz, 25 MHz dai, punto zero fai. Sì, lo so, infatti sui canali alti qua non c'è manco, come si dice, sui canali alti stazionari non esistono in questa antenna, da 41 in poi proprio no, le stazionarie non esistono, ma anche quella là era così, lo sai. Poi la larghezza di banda, no, quella non me la ricordo, per esempio, salendo di canali e scendendo di canali, dov'è che c'hai due di stazionarie? No, non hai avuto modo di fare la prova, no? Per sapere la larghezza di banda, diciamo, no? Massima, fino a due di stazionari. No, nel 40 è un po' più alto, con quella là era sempre più alto nel 40, dal 41 in poi erano basse le stazionarie. Qua è a 1,1, appena, amico, così. Nel 40 arrivano anche a 1,4, arrivano. Poi dal 41 in poi manco, non esistono le stazionarie. È strana, si suona così questa. non mi posso lamentare perché questa va bene l'antenna, non mi posso lamentare, questa sarà bene. Ok, poi ripeto, da quello che credo di ricordare, mi pare, che ne so, andando sul canale 90, dovrebbe essere equivalente a... aspetta, 27.855 dovrebbe essere 27, che canale è, porca miseria, il canale 90 cos'è, 955, una cosa del genere, 975, va bene, poche barauli, sul canale 90 1.7. Non sono andato oltre perché poi c'è la banda amatoriale, capito, quindi sul 28 non si può andare. E poi sul 90 sotto, nota bene, il canale 90 sotto, che è, naturalmente non ricordo la frequenza, 1.6, capito, appena appena di meno, ma è una cosa... poi se vai oltre, ancora qualche canale, forse 100 canali sotto e 100 sopra, probabilmente te li copre. Sempre con stazionarie fino a 2 massimo. Naturalmente se vai al centro banda, tipo sull'1 è 1 sta 1, non si muove nemmeno la lancetta, è ovvio. Nella tua, quella che è adesso. Eia. Poi te l'ho detto, come ho detto a Gianni, io ho seguito la tabella di taratura, però lì influisce anche la lunghezza del palo, l'altezza del suolo, forse anche in piccolo la lunghezza del cavo, anche se non dovrebbe, gli ostacoli vicini, che ne so, palazzi, muri, capito, antenne TV. Lo so. Ma io ho notato una cosa, diciamo quello che vogliamo. Quando è tarata da questo tipo di antenna, fissamente in occhi dritto gasa esce. Cioè, magari sta appena 1 e 2 mettiamo. Cioè, io quando la metto appena fuori poi sparo, cioè, a 1 e 1. Anche a 1 e 2 io da qua sono riuscito a farlo uscire. Ci andavo un e uscivo così, ci sentivo anche Claudio, dentro un gas da me, cioè, che la stavo per piazzare, cioè, se ti puoi immaginare l'antenna, cioè, esce, a fine, cioè, con la punta fuori, cazzo, lo tira in occhio dentro, ci erano a testa. Per esempio, la Energy invece, non ho fatto le prove di taratura, non le ho fatte. L'abbiamo piazzata, tutta nastrata bene, poi alzata. Però ho seguito la tabella, però ho detto com'è la taratura, non voglio fare prove come l'altra antenna, ho detto com'è esce. Diciamo non è perfetta come la volevo io, col centro banda sul 20, però d'altronde chi ci va più sui canali alti, cioè di ex... chi ne fa più di ex, ma chi li ha mai fatti di ex poi? Cioè in modo serio no, capito? Proprio facendo decine di cose. A me piace sentire ogni tanto un italiano chiedere di dov'è, un segnale, così, le solite fesserie, non sono un DXer io, non, anche perché i DX sarebbero anche vietati fuori dalla nazione, no? In teoria. Vabbè, quanto c'è? Centro banda cos'è? Sul 20? Quanto è sul 20? Ma è 1 e 1 sempre, 1 e 1. Sul 40 1 e 1, 1 e 2, comincia per esempio 1 e 2, ma cioè, non le conto nemmeno così. Sul 40 1 e 2, sull'1 è proprio 1 sta 1, non si muove nemmeno. Poi te l'ho detto, fino ad arrivare al 90, che dovrei avere una 7, una 8, ma io ricordo una 7. Poi vabbè, il rosmetro è piccolo, ecco perché vorrei un rosmetro buono, perché sta anche partendo quel rosmetro lì, sta cominciando a sbarellare. Più che altro la levetta di regolazione del fondo scala, quella che sta partendo. Ho sentito un fischio, chi è che vuole entrare? Ah, sai che io ero là, c'avevo lo spinotto della cassa messo male, cavolo. Lo sai che Marco c'ha l'alternata, aspetta un attimo, Negativo. Prova Marco. Prova un po'. Ti lascio la portante. No, no, a posto. No, praticamente mi fa l'alternata, l'alimentatore del portatile. Allora, siccome stavo uscendo di casa per tornare a casa tua, ti volevo chiedere, quell'alimentatore famoso che io avrei dovuto comprare, come sta andando? Perché l'altro giorno ti ho sentito dire qualcosa che ha freddo, cos'è che ti fa creare? Un problema. Era un problema, non lo so, non lo sta più facendo adesso, ma non credo che non dipenda dall'alimentatore. Magari è il microfono che è un po' messo male, dai un attimino Marco che sistemo un po' le cose e qua poi riprendo. Via, fai pure. Io a breve vediamo, Anto, che ore sono? Lui, già le 9:10 passate. E dai, adesso aspettiamo che entri Luca, così ci salutiamo tutti e poi mi accendo la TV. Poi Anto, già ti volevo dire di antenne, vabbè, grosso modo quello che dovevamo dire l'abbiamo detto sulla Ringo. Vabbè. Appa, prova, qua sei abbastanza forte, prova. Quasi, quasi 9:20 in Radio 5, in che zona sei? Adesso sono in zona campagna, sto trovando il stabilizzatore dove stavo andando. È una bomba. E tu come lo senti, Marco? Praticamente 9, manca mezzo millimetro a Santiago 9. Franco, se puoi fai il passaggio staccato attaccato, così ti dico di quanto aumenta. Così ho attaccato. Così ho attaccato, 1, 2, 3. Cavolo, però non fammelo senza modulazione, Fra, perché non cambia molto qua, sembra che non cambia affatto quasi. Fallo a portante muta. Portante muta qua è 9, però è a picchi di 9:15, 9:20, dai, diciamo, secondo come parla. Tra me e lui come ci senti lì? Ma era Franco quello che ha provato, se era lui è Santiago 7 e quindi attaccato è praticamente 9. Kappa, sei 9 attaccato. E qua 9:15, da 9:15 anche di più da me. Da Marco non lo so. Sì, Franco, confermo, da 7 a 9, da 7 a 9. Guarda, dai, quando cambio il rapporto 9:10, 9:5, dai. Ok, ma stavo con il caso di poter trovare questo amplificatore, lo stavo sistemando. È naturalmente uno smitter di baracchino questo, e quindi prendila per buona, però la differenza c'è, ecco, si nota. Esatto, allora, ma anche lui sta arrivando bene. 9:10 andò qua alla zona di Canada. Capo, Marco 9:05. Evidentemente sei più favorevole a me che a lui. Cioè sono più favorevole io, vabbè, sono un'altra posizione che lui. Magari lui è un'altra posizione. E io faccio poca differenza, dai. 9:05, 9:10, dai, 9:10. Questa grande differenza che c'è di segnale. Ma come stai uscendo tu con una manto qua? No, io sto uscendo con la Game Master che ho costruito. Cappa, una bomba, già va bene, no? Ho Marco. Sì, se a Canica va più che bene, più che bene. Adesso aspetta, ma proprio Canica, non... Quindi abbastanza basso sei, sì, allora sta andando bene comunque Fra. Zona molto bassa, in opposto praticamente, dai. Sì, allora va bene, va benissimo. E mi ricordo tanti anni fa, modulava qualcuno la Canica e se l'antenna era una verticale, tipo 5 ottavi, grosso modo eravamo lì come segnale, quindi già sta andando bene, ok. Vediamo se è rientrato Luca. Capo, io ti devo salutare, dai, un attimino, devo andare anche alla barba. Ok, dai, ce la risentiamo, Marco. Ciao anche a te, Franco, dai, ce la risentiamo. Ciao Antonio, buona serata con tutto, ce la riascolta le prossime, anche quelli che sono in ascolto. Avanti Marco, dai. io te devo lasciare. Ciao Antonio, buona serata, buon tutto, buona cena se la devi fare, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao ciao, vediamo se è entrato Luca, se no chiudiamo direttamente, adesso mi accendo la TV. Niente, Luca non è rientrato, va bene, Fra, ti saluto anch'io, tanto mi sono quasi le 9, anche questa giornata è andata, grazie a Dio che si può uscire di giorno, mi, se no... Se tornavamo come marzo-aprile, ciu-ciu, roba da impiccarsi, per carità, mi prende male a me, se non mi faccio fare il certificato me, e dico che mi vengono pensieri strani a stare chiuso in casa, ci avevo anche pensato me, figurati come stavo, ma è brutto essere a casa forzatamente. Ok Fra, allora buona serata, buon tutto. E si può dire che linea retto è? Cos'è? Transistor o valvole? Sì, vabbè, dove va a trovare la valvolare, comunque, dai. E no, sto pilotando a molto potente adesso, perché posso ancora avanzare, ma non ho visto l'auto. Perché il cavo è proprio sul finger, capito? Lo riduce con tutto, me lo fonde. Ok, va bene, Marco, sì, infatti, confermo, che mi piace un supportare, giusto? Quando è possibile starci, tutto qua. Ok, dai, ti ringrazio da controllo, ringrazio anche gli amici che sono in ascolto e che la riascolta le prossime. Buona serata a tutti. Per recuperarmi, grazie ancora. Ciao Franco, buona serata, buon tutto e alle prossime. Ciao a tutti gli ascoltatori anche, ciao a tutti, ciao.